Io dico, se tra metà che vicino sei, io quello non riesco a capire, finché mi ci esce, te lo faccio nell'ascolto, non riesco a farmi scoprire, tanto quanto. Non lo concepisco però, tanto quanto. Ma se sa che sei tu, tanto glielo dici, glielo insulti, glielo dici tutti i colori, che anche allora è proprio matto di tutto uno. Ah, non mi credi? Se non ci credi tu, no, è pure così. E per tante volte mi lascia fare dubbi anche a me, se poi ho scoperto che c'era anche l'altro, ho capito. Ma tu mi dia ancora, hai detto che come? Come mai? E poi invece sono venuto a stupire, perché il colpo portatile, ma non più il colpo sicuro, ma basta che mi avvicina la porta, e si schia pure, e allora, diritto. E allora qua c'è un altro tuffo. Sì, i tuffi sono due. E allora è così che l'ho scoperto, perché a volte, perché lui ne dava, no? Cavolo, ho detto, allora, questo qua c'ha ragione. Invece poi il cervello è così col portatile, ho pensato che erano due i tuffi. Ma cosa tu hai capito? E allora, lo sai, come te, no, sta vicini, da voi, vado a fare la cosa, cioè, quando tu ti avvicini, senti tutto l'estate, gli ho mandato la portante, ho fatto una specie di urlo, l'ho sentito là dentro la porta. E ha detto l'amico mio, allora siete in due voi. Hai fatto anche sentire quindi? No, io... Hello. Londra o CD? La Forte dell'Ordine è stato denunciato da alcuni, qua in Rai ho troppo solito da alcuni che erano già, che erano CPP, ma i vecchi CP è stato denunciato sempre perché prima quando parlavano non parlavano con i cibi verso le mogli, verso le figlie. Io però sono anche un po' stanco, dai. Ci sentiamo, buona chiacchierata, dai. Ci siamo fatti un bel colesterolo, dai, ti saluto, ciao, se non ci sentiamo, ma penso di sì domani, magari già accendo domani sera, tanto già sono in casa, non verrà, dai, se ci sentiamo, magari ci facciamo gli auguri domani, ciao, ciao, cuore ti da parte mia. Saluto anche Antonio e a tutti gli eventuali che ascoltano e che ci sono in frequenza. Ciao ciao, correte da parte mia. Ciao Roberto, buon pomeriggio. E ciao fate anche a te, dai, ci risentiamo al plus. Ciao, papà. Ciao, papà, proviamo. Io devo andare adesso a cambiare la quale rive. Comunque proviamo a passare sul 21 e se la riascoltiamo fra un pochettino sul 21, dai, che vado a cambiare l'acqua. Già pagato la sua, okay.